Introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa sortire, fa sortire, fa sortire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamato va crescendo, prende forza poco a poco. Vola già di notte il loco, sembra il vuoto, la tempesta che ne intende la foresta, va fischiando, brancolando e si fa dolor crepar. Alla sinistra bocca e soffia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Un tremor temporale che fa l'aria rimbombarsi, che fa l'aria rimbombar. E il mestino calunniato appillito calpestato sotto il pubblico flagello per la sorte potevar. E il vestito calunniato appito al peccato sotto il pubblico flagello per gran forte fa crepar. Sotto il pubblico flagello per la forte va crepar, sotto il pubblico flagello per la forte va crepar, si va crepar.